ad alta voce. Maria Paiato legge Il Comunista di Guido Morselli. Sesta puntata. Una mattina d'inverno, era ormai l'amministratore stabile dell'Old Laurel, Nancy DeMar incontrò Ferranini uscendo dalla stalla e facevano una copertina del Saturday Evening Post. La neve, lo sfondo rustico, lei elegante in cappottino rosa, lui con la camicia di flanella a scacchi. Teneva un boccale di latte che si era fatta mungere apposta e, fosse capriccio o improvvisa cordialità, se lo staccò dalle labbra sorridenti per offrirglielo. Le buttò uno sguardo che pretendeva di essere sdegnoso. Lei a insistere. «Beva, prego!» Doveva lasciarsi imporre da quella smorfiosa. Girò sui tacchi. Buon per lui, o peggio, che la smorfiosa non si impermalì e andò come doveva. A metà dicembre telefonarono dal Garden of Lisieux, il collegio, che la ragazza era ammalata di influenza. Desiderava il Green China Tea, un certo tè di cui la ditta DeMar aveva l'esclusiva. A Meadville non si trovava. Prevedibile che il papà, per farglielo avere d'urgenza, dovesse spedire Ferranini. Lo accompagnò Salvatore, il maggiore dei maschi di DeMar, sui 15 anni, ed entrarono insieme in quella camerina gremita di fiori, fiori di campo e piante in vaso, che pareva ci fosse un morto. Spiegò Salvatore che era una mania di sua sorella, anche a casa, di dormire con tanti fiori. Ofelia in mezzo ai fiori e l'ex miliziano in convento. «Andiamo bene», ebbe ancora lo spirito di dirsi Ferranini, mentre dal letto lei gli faceva cenno di venire avanti. Poi, dopo che si fu seduto e lei gli ebbe sorriso e Salvatore, che si annoiava, fu uscito per andare a fare un giro a Meadville, a ironizzare non ci pensò più. Non pensò più a niente. Scoperse con meraviglia che sulla parete dietro il lettino di ottone squillavano le stelle strisce della bandiera. E la Madonna, il crocefisso, non c'erano. Si sarebbe meravigliato di più se sin da allora avesse saputo di che cosa amava occuparsi quella Ofelia. Era un'attivista e da dargli dei punti, anche se devota a una causa che lui non avrebbe approvato. Figlia di immigrati, Nancy si era sentita, adolescente, la vocazione della American Hood, un nazionalismo introflesso, rivolto all'interno del paese, il culto degli usi, delle memorie, dei retaggi della stirpe, studiosamente alimentato da società e consorterie varie. Nei programmi di queste, il patriottismo si mescola al conservatorismo sociale e sfiora l'ottusità razzistica. Di una o due, Nancy si era meritata il Distinguished Membership, con la sua propaganda personale nel collegio e fuori. Non contenta, aveva fondato una lega per conto suo, la vecchia America, con un centinaio di aderenti, ragazzini e ragazze, che sopraggiunta la guerra si accontentavano di raccogliere riviste, dischi e chincaglierie diverse da mandare ai soldati. E nel frattempo, languida sotto le stelle strisce, Nancy allungava la sua mano sul letto sino a toccare la mano di Ferranini. Questo alien, piovuto chissà di dove, estraneo e forse irriducibile all'americanità, come i maccheroni o il fandango. Si fidanzarono 4 mesi dopo, che già gonfiava la primavera, e Nancy scese all'Old Laurel in crinolina e cappello di paglia da un landò a 2 cavalli. Colorita e ridente, riesumava senza troppo sforzo lo stile coloniale sotto i ciliegi puntualmente carichi di fiori. Il matrimonio, in cui Minelli fu uno dei testimoni, seguì a Camden alla Town Hall senza nessuna festa, adeguato ai tempi duri. Il giorno prima gli aveva detto con garbo e schiettezza quello che le altre pensano e non dicono. «Ti sposo perché mi piaci, ma mi piace la libertà e ti sposo per averne di più, non per perderla». La pallida, la trasognata e sensibile signora Clementine non simulò una soddisfazione che non provava, ma non si era opposta. Da parte sua, De Mar ci teneva troppo alla sua quiete per opporsi, sebbene avesse coltivato maggiori ambizioni. «You are a lucky guy», si limitò a dire, come sempre in americano, perché all'infuori di quello non parlava che il dialetto di Altamura, impenetrabile a Ferranini. Questi del resto gli pareva un uomo serio. Era un impiegato di piena fiducia, non un grande venditore. E restava Salvatore, il primogenito, a futuro erede dell'azienda. De Mar finì col vedere di buona voglia la scelta della figlia. Passò un anno nelle tre stanze un po' basse e scure all'ultimo piano della palazzina dei De Mar, in cui si erano adattati. E nel mondo la guerra intanto diventava più vasta e disperata. Ferranini si era rassegnato a rimettere i piedi per terra, anche se cercava di andare meno spesso all'Old Laurel, che gli metteva malinconia. Innamorato sempre e con la patetica certezza, propizia all'amore, che Nancy lo avrebbe fatto soffrire. Sicuro, d'altra parte, di conoscerla, le faceva l'elenco dei suoi pregi e difetti. Una sera, in presenza loro e di alcuni amici, Nancy annunciò fieramente di essere entrata a far parte del comitato direttivo dell'American Heritage a Boston. Era un'altra consorteria o lega, ben più potente di quelle che le davano tanto da fare in collegio, di conservatori, anche in politica, anzi estremisti in politica, col programma di restaurare l'integrità delle istituzioni, del costume e della razza, come era almeno all'epoca della guerra civile, per i cui campioni, sudisti e schiavisti veniva raccomandata una speciale venerazione. Il vecchio De Mar non sapeva molto dell'American Heritage, ma gli risultava che fosse anticattolica. Fece le sue rimostranze alla figlia, le predisse che sarebbe finita nel Ku Klux Klan. «A ogni modo», ribatté Nancy, «io vivrò e finirò da americana». «E io? Io sono americano da 32 anni!» Si sentì dire che non aveva ancora imparato in tanti anni che per la festa del Thanksgiving Day si mangia il tacchino arrosto, non il cappone lesso. Di questo era fatta la sua infatuazione per ora, ma doveva peggiorare. In camera si teneva un cartellone reclam del corpo dei Marines, un longilineo soldato dai capelli color sabbia come l'attillatissima divisa, e tutt'intorno la scritta orgogliosa «The only country that never lost a war». A Ferranini toccava spogliarsi davanti al manifesto. Lui bruno e non alto, sotto gli occhi della moglie e con lo sconforto del raffronto implicito. Frattanto lei leggeva i numeri della National Review, un settimanale sciovinista e bellicoso, e contava anche di scriverci, disse. In Nancy De Mar, come in parecchi suoi concittadini di quel tempo, anche più anziani, colti e navigati di lei, lo snobismo andava maturandosi in una scelta ideologica. Prendeva forza quel movimento d'opinione o di pregiudizio che si sarebbe poi chiamato genericamente rightismo, destrismo e maccartismo. La reazione rinnovata, reazione a Roosevelt, al New Deal economico, all'alleanza coi sovietici, agli ideali della pace e unità mondiali, si complicava del sempiterno disprezzo timore delle borghesie dell'est e del sud verso i negri e gli immigrati. La propaganda era sottile, relativamente discreta a causa delle necessità della guerra, ma instancabile. Nancy fu di essa una delle tante conquiste e vittime. Una vittima che, senza precisamente volerlo, diffondeva quel disordine, contagiandone quanti le erano vicini. Non riusciva a perdonare ai genitori, e ormai li chiamava soltanto quei vecchi, di essere di sangue italiano e irlandese. Sulle sue tracce, la signora Clementine scopriva che De Mar era troppo in là con gli anni, troppo semplice per capirla, e Walter, suo genero, un furbo che si era accaparrato la moglie ricca. Un brutto giorno decise di essere malata grave, d'anima, per la incomprensione e meschinità degli altri. Si fece portare a Vanport, sul mare, in una clinica albergo specializzata per le malattie come la sua, con le relative cure psicanalitiche, e ci rimase. De Mar, in un accesso di stizza, ma era anche sconforto poi, dolore, telefonò e gli scappò detto che aveva fatto bene ad andarsene. Si pentì presto, la supplicò di tornare. Quella, forse offesa ma isterica sul serio, come spesso le introverse in attesa del climaterio, a declamare che le avevano calpestato l'anima e a giurare che non l'avrebbero riveduta più. De Mar scoppiava a piangere ogni sera come si metteva a tavola, e a consolarlo non c'era che Ferranini. Nancy né disapprovava la madre né la difendeva, restava neutrale. Eppure, con tutti quei ragazzi, con Carmelo il più piccolo che non aveva 7 anni, il vecchio era davvero da compiangere. Siccome la figlia maggiore, che pure voleva molto bene ai fratellini, a quelle cose non ci aveva attitudine e non trovava il tempo, bisognò che venisse per casa la Esposito, un'anziana impiegata della ditta che nelle ore libere facesse da governante. Fu lei la causa involontaria se la situazione precipitò per Ferranini e per tutti. Il marito dell'Esposito insegnava nella primary school dell'istituto privato e cattolico di San Paolo a Camden. Sicché nel settembre 45, come la scuola riaperse, quella pensò bene di iscrivere i ragazzi al San Paolo e l'incauto De Mar non si oppose. La sua figlia maggiore venne a saperlo con ritardo. L'Esposito fu congedata sul momento. Dopodiché Nancy andò con l'automobile a prendere alla scuola i 2 fratellini, redarguì anche loro, poi toccò al padre. I ragazzi dovevano frequentare scuole pubbliche, scuole americane, non degradarsi nella scuola dei polacchi, dei portorichegni, degli italiani. De Mar, istruito dalla sorte subita con la moglie, stavolta era disposto a cedere. Era mezzogiorno passato. Ferranini stava nel cucinino, intento a rigirarsi nella casseruola una polenta, quando colse quelle ultime parole di lei. Si buttò fuori strappandosi il grembiale, l'agguantò agli avambracci, la sollevò, la tenne sospesa da terra, la piombò sulla seggiola. De Mar levò le mani non per difendere la figlia, ma per soccorrere lui. Livido, gli occhi velati, annaspava. Arrivò all'uscio barcollante per andare, per sottrarsi, ma non fu capace d'aprire e rimase lì, attaccato all'uscio. Rientrò 2 sere dopo dal sud, dove De Mar l'aveva mandato a svendere roba. L'azienda si appesantiva, c'era bisogno sempre più di liquido. Con le parole già tutte in testa, che gli pulsavano come vene, le domandò perdono, le parlò. Le fece vedere pazientemente che sbagliava, in che maniera sbagliava. In viaggio ci aveva riflettuto. Lei non aveva colpa. Era buona, lo aveva preso quando si era accorta che le voleva bene, lui, povero diavolo. Dunque è buona, dunque è recuperabile. Bisognava pulirla d'un fango di cui l'avevano sporcata. Ci sarebbe riuscito, l'avrebbe riavuta, rimessa al mondo. Le prese il viso fra le mani, le parlò calmo e serio, la bocca fra i suoi capelli, ed era una dolcezza ragionarle così. Lei era giovane e nuova e con tanto amore dalla sua parte da godere, perché abbandonarsi a delle storture vecchie, sciocche e poco umane? L'America ha vinto la guerra, sì, ma prima hanno dovuto vincere dentro l'America le idee dell'umanità, e cioè poi un'idea sola, che siamo d'una razza tutti, anche i portorichegni, e abbiamo tutti bisogno delle stesse cose per vivere, il nostro pane, una casa e la nostra donna. Si ridusse a dirle questo, povero Ferranini. Da fidanzati mi chiedevi se ero un commi, un comunista. Tu pensa che anche un commi può essere un bravo lavoratore, un bravo cittadino USA. Nancy lo aveva lasciato dire, incupita però, nel viso chiuso. E dopo, lui non se la trovò in camera. Era andata a dormire giù, coi fratellini. Non gli rivolse la parola per diversi giorni, finché venne la metà del mese, quando di solito partiva per la gita a Boston. Partì, difatti, senza speciali preparativi. Salutò il padre, i fratelli, e a lui buttò un «so long». Ferranini non si illuse. Sapeva che la stava perdendo, ma si era imposto di avere coraggio, e ne ebbe. Passarono 2 mesi. Lei non si vedeva. Passò l'ultimo giovedì di novembre, il Thanksgiving Day, e lei non si vide. Si era attaccato alla speranza che per quel giorno sarebbe tornata. Telefonava tutte le settimane al padre o alla madre a Vanport, dando notizie di sé molto generiche e senza parlare delle sue intenzioni. Solo annunciò che da Boston si trasferiva a New York. Era stata assunta alla National Review come segretaria di redazione. De Mar e Ferranini, vedovati d'un tratto tutti e due, si guardavano in faccia. Il vecchio sbalordito ancora e interrogativo, l'altro muto, inasprito oramai. Il suocero cominciava a fargli discorsi che gli sembravano stupidi a dir poco. Doveva esserci un altro uomo che tirava a portargliela via, andasse un po' a vedere se ci teneva il suo onore. Non è giusto abbandonare sola una ragazza di questa età. Ma smettetela, si rivoltò lui una di quelle volte. L'onore, me ne frego ben io, me ne frego di vivere, capite? In ufficio, la mattina dopo lo aspettava De Mar, in maniche di camicia davanti alla finestra spalancata, la faccia apoplettica. Il vecchio sudava e sbuffava sempre, anche d'inverno. «Ne sai niente, Walter. Abbiamo dozzine di galloni di solventi in magazzino. Perché non li mandi fuori? Dico, se capita un'ispezione, non ci salva nemmeno la Madonna del Carmine». Gli infiammabili dovevano essere man mano smistati al deposito che avevano fuori città. Da un mese Ferranini non dava gli ordini. Semplicemente se ne era dimenticato. «Sono una bestia», ma lo disse torvo, senza giustificarsi. De Mar gli andò vicino, gli calcò le 2 mani sulle spalle. «Non è che sei una bestia, stai uscendo matto, non capisci niente più. E io ti dico, falla tornare, portatela a casa, è buona d'animo, credimi, è più buona del pane, bisogna conoscerla. Senti questa, mi è tornata in mente poco fa. Volevamo farle un apparecchio per tenerle a posto i dentini dinanzi. Aveva 9 anni. Non c'era verso di portarcela. Allora le dico, guarda, il tuo papà, finché non vieni dal dentista, non fuma più. E caccio la pipa nella stufa. Dopo mangiato, la sera, me ne stavo lì zitto, con uno stecco in bocca. La bambina mi guardava, poi si muove, mi prende per un braccio. Papà, portami dal dentista. Cos'è, Walter? Ridi? Non ci badate, De Mar, lasciatemi perdere. Ma cosa, Walter? Non mi credi? Gli sportelloni del vecchio bimotore Dakota, che lo avrebbe trasferito scarrocciando malamente oltre l'Atlantico, si chiusero per la partenza qualche minuto dopo la mezzanotte del 30 dicembre 45, ossia quando si chiudeva per lui il 31° anno d'età. Durante il lungo, non tranquillo volo notturno, lo colpì quella coincidenza. La gioventù era andata L'America scompariva nella notte dietro di lui, con il suo buio e le sue luci. E così, senza rimedio, ma anche senza residui, scompariva il suo passato, il buono e il cattivo che aveva avuto. E naturalmente anche qui si sbagliava. Scesero a Shannon in ritardo e la mezz'ora di attesa lui la impiegò ad ascoltare, avido, dalla ragazza che stava al chiosco dei giornali, dal personale della stazione, l'accento irlandese, che era l'accento della signora Clementine, di Nancy quando l'aveva conosciuta. Prima di ripartire ci fu la visita alle carte dei passeggeri e quelli di nazionalità americana ebbero l'invito a formare un gruppo separato. Quasi senza saperlo, Ferranini si accodò agli americani. Intervenne l'ufficiale di dogana. «Prego, lei dall'altra parte». Avrebbe bestemmiato. Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.